24 mattino di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Anche Fassino adesso dicono molto come Piero Fassino, come outsider, è dato molto. A che ora è lo stacco pubblicitario? No, non c'è più, c'è lei, poi c'è la Letizietto. La Letizietto ha compiuto 50 anni. Sì, sì, però non è adesso. La Letizietto. Emigro. Perché lo può far lei? Perché anche lei ha compiuto 50 anni. Emigro. Fate un po' le primarie, allora, la Letizietto è pazzo, vediamo emigro. Come va. 100, quando siamo, ok, prezzo giusto. Il problema riguardava legge elettorale e riforme istituzionali e costituzionali. Quelli che dicono voi vi siete visti un anno fa, e che c'è? Non è mica il patto del mago Selma che uno immagina prima cosa avviene. Cioè, quindi, ciao Matteo, ciao! E a quelli che dicono bisogna fare il Presidente della Repubblica però, senza le opposizioni, si fa il Presidente della Repubblica coinvolgendo tutti. Porto questo accento che rallegra anche chi incontro in ogni luogo dell'Italia, ma com'è che mi rattristo quando mi viene detto che io gli ricordo quel bravo sindaco che invece io sberleffo, e sai perché? Tra promesse e inciuci elettorali fosti eletto presidente dell'inabolibile. E vabbè, da Fazio siamo ormai come dovrebbe essere trattata la vicenda, alle celie, alle battute. Ma sì, mettiamo la Letizietto, mettiamo Fazio, il mago Telma. Ragazzi, siete pronti a un mese di mattonate sui giornali per la corsa al Quirinale? Mattonate di piombo, non dico dove le mattonate, ovviamente. Perché sì, questo è fino a fine gennaio, quando probabilmente ci sarà la scelta per il nuovo Presidente della Repubblica, è partita questa corsa, interviste, candidiamo questo, candidiamo quell'altro. Per dire, oggi sul Corriere della Sera ci sono tre pagine di mattonate sulla corsa al Quirinale, e poi c'è mezza pagina con su scritto aumentano le tasse, le accise, la benzina, le partite IVA, così. Questo per dire la proporzione, l'importanza delle cose, Tre pagine di mattonate a sinistra, mezza pagina su così aumentano le accise, le partite IVA in difficoltà, forse l'IVA al 25,5%, le accise salgono di 7 miliardi, così è. Ospite fisso dei giornalisti, affitti il ponte vecchio. Va bene così, va bene così. D'altronde inizia oggi l'86esima settimana decisiva per la riforma elettorale, nonché per l'abolizione delle province. Ale! E qui inizia una settimana di 24 mattino. Saremo in diretta fino al 24 di dicembre, fino alla vigilia di Natale, con Lorenzo Nespoli in redazione, col nostro Carmelo Lauricella in regia, mentre il nostro alpino l'hanno già spostato a fare il pinnacolo della albero di Natale. È lì. Dai, apriamo il Parlamento, su. Parlamento attivissimo, c'è da approvare la legge di stabilità. E quindi si fa notte, si vota tutto fino alle 2 di notte. Voglio salutare intanto Lia Celi, un graditissimo ritorno. Buongiorno Lia, come stai? Buongiorno. Ti sei svegliata, hai messo la sveglia? Ieri eri preoccupatissima. No, perché io sono già preoccupata perché l'intervista di Renzi non l'ho vista. Neanch'io. Me la sono persa perché le figlie volevano guardare il banco dei pugni su Di Max, che è questa storia su un banco dei pegni, un posto dove dei poveracci portano. Mi sembrava esattamente italiano. Quando hai dei figli in casa è terribile, vuoi vedere una cosa e no, c'è. No, ma comunque è meglio di X Factor, il banco dei pugni è bellissimo, è pieno di parolacce con i beep, ci sono più beep che parole. Meglio di Fazio, come vorremmo che fosse Fazio. Ecco. Il banco dei pugni, vabbè. Saluto cara Lia Ceni, qua continua il nostro esperimento sociale, Marione Adinolfi, che oggi dovrà ringraziarmi forse, eh? Partiamo con un bel ringraziamento del Marione Adinolfi, no? Non vorrei... Grazie Milan, ma sì, tutto sommato, grazie Milan, usando il tuo cognome, adesso la tua squadra che sta a 14 punti di distacco, che abbia fatto un pareggio ogni tanto, non è che, vabbè, sono lì, per carità, ma... Cioè, capito questi ingrati... Anche che... Sassuolo ha pareggiato all'Olimpico la settimana prima, non è, mi pare che adesso dobbiamo far tirare fuori le trombette. Vabbè. Pronto? Maria Di Nolfi, sì. Agricione di merda! Eccola lì. Per ringraziarmi il pubblico romano e romanista. Abbiamo richiamato questo esperimento sociale che Maria Di Nolfi ha lanciato da noi. Esperimento lì a Celi, non so se vuoi unirti anche tu in questo esperimento. Maria Di Nolfi ha deciso di lasciare il suo numero di cellulare in diretta in modo che tutti gli insulti che di solito arrivavano in segreteria arrivassero direttamente a lui. E così sta succedendo. Continuano. Non lo so, ma è proprio per questo spirito di sacrificio io candiderei ad Adinolfi al Quirinale direttamente. Sì. Non ho l'età. Non ho l'età. Giro prossimo ce l'ho. Giro prossimo. E ricordatevelo fra 7 anni. Vabbè, continua comunque questo esperimento. È meraviglioso. Adesso siamo passati allo stalking vero e proprio. Ah. No, anche se credo comunque che Adinolfi abbia collezionato meno insulti di quanti napoletano ne ha presi dai grillini, ecco, quindi mi sa che Adinolfi li ha superati. Vado forte, insomma. Comunque ricorda, chi volesse proseguire 334 37 98 534. Qui ci facciamo gli auguri di Natale in rima, insomma, sì, perché... rime baciate, rime che voglio baciate, immaginare. Lo ricordo anch'io. Per... a telefonare mentre sono. Sì. È già arrivata una. Già no, arrivata... no, no, non capiscono che deve mettere giù prima. Deve mettere giù Lia Ceni. Lo chiamano mentre è in diretta con noi. È fantastico. Questa cosa... è straordinaria. E vabbè, la sua è mattina mezzo, sono incoglioniti, lo sappiamo. No, Natale, la settimana di Natale. Un'altra è arrivata. Ecco, un'altra. Vogliamo ricordare ancora il cellulare? 334 37 98 534. E questo è meraviglioso. Vi sto collezionando, sappiatelo, insomma, ho letto un materiale straordinario. Lia, anche tu se vuoi, poi dopo di solito mi chiedi il cellulare di Adinolfi fuori onda, adesso ce l'hai e poi puoi farne ciò che vuoi, ecco. Ma no, ma non mando telefonate cattive. No, infatti. Sono soltanto cose carine per Adinolfi, va bene. Invece, ma a voi appassiona, non so, tu Mario sarai appassionatissimo di questa corsa al Quirinale. Finalmente c'è qualcosa sui giornali. Finalmente. Ma che veramente vuoi parlare di economia? Ma l'economia è una sua scatola, è terrificante, insomma. Non è che voglio... Si deve occupare di qualcosa di cui, insomma, no? Gli italiani non capiscono granché e dunque possiamo raccontare, gli italiani se ne accorgono se l'IVA aumenta. Dei giochi invece del Quirinale non ne sanno granché. Non ne sanno granché, leggono il giornalismo deve svelare ciò che l'italiano non sa, che l'italiano si è impoverito, l'ha capito, insomma, ho l'impressione. Certo. Invece di tutto ciò è bellissima la partita a scacchi che sta per generare un inquilino che per 7 anni al Quirinale comunque qualche potere ce l'avrà, è molto divertente. Lia è bella, tu sei appassionata di tutta questa, no, le leggi tutti questi retroscena sul Quirinale, Lia Ceni, vero? Ma guarda, io sono solo contenta che al posto della lotteria di Capodanno che allietava la mia infanzia, adesso c'è la lotteria del Quirinale che direi che è anche più divertente e appassionante, non si vince niente però lo spettacolo non manca, insomma. A parte Adinolfi, voglio dire, se proprio abbiamo bisogno, cioè in questo mese abbiamo Babbo Natale che passa, possiamo piazzare al Quirinale direttamente lui, e comunque adesso anche i fratelli Castro sono abbastanza alleggeriti dalle responsabilità, uno dei due potremmo anche... Ma dai, fratelli Castro... No, sentite, a proposito di lotteria, sentite questa, è Calderoli, perché voglio dire, siamo Calderoli su Sky, credo, cioè perché ognuno qua ha il proprio candidato. Allora, Calderoli ne ha un paio. Caprotti e dell'esse lunga credo che abbia dimostrato nella vita di essere una persona estremamente capace. Anche Vittorio Feltri mi piacerebbe, una persona che non ha mai passato. Ma voi vi rendete conto? Bernardo Caprotti dell'esse lunga, che per carità ha fatto un impero commerciale, eccetera, e Vittorio Feltri Adinolfi. Fai un paio di candidati anche tu, Milan, che ne so, insomma, no? Mi mettete Ancelotti, ce l'ha 50 anni. No, sì, Ancelotti no? Non lo so. Arrigo Sacchi metterei per Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi. Non sopporta lo stress Arrigo Sacchi, capito? Ho capito, ma io sono più legato a Arrigo Sacchi. Le figure, capito? Così. No, Pellegatti. Eccolo qua. Ottimo, Mario. Candido ufficialmente, il mio candidato è Carlo Pellegatti, la voce del Milan. Quello che fa le telecronache. Ma io lo ascoltavo quando ero piccolino, dai. Mi ricordo la prima radio dove è intervenuto, a Radio Prespanda. Cecchetto che ha fatto l'autobiografia, Presidente della Repubblica, trovo bellissimo. Ormai pubblica per Einaudi, ormai, cioè, non gli fai far presidente. E tu Lia non hai un candidato, dai, qualcuno che intimamente. Io sarei per un candidato così di compromesso che riunisca tutti, non il signore Selunga, ma l'uomo Conad, che a noi donne piace tanto. Tu vuoi la Conad? Non ha 50 anni, bisogna rispettare le regole costituzionali. Non ha 50 anni. No, allora Cecchetto mi sta bene, perché immaginate che bello il messaggio di Capodanno. Effettivamente Lia rispetta un po' le regole, almeno 50 anni deve avere. No, ragazzi, sono una MILF, sopra i 40 per me sono già troppo... Vabbè, adesso Milan dice cosa vuol dire MILF questo lo dirà il direttore, il neo direttore della Croce, che farà un'inchiesta sulle milfone d'Italia. Ricordo il 13 gennaio in edicola, siate venuti, esatto, infatti. Lia Cerri, ma tu la sapevi questa cosa di Adinolfi, che il 13 gennaio parte il suo nuovo quotidiano dal titolo La Croce? Cartaceo. Lo trovi incredibile, lo troverai in edicola, Lia. Ma questo nome da quotidiano da cattolici integralisti, noi gente da trivio possiamo rappresentarci come noi, gente da trivio è così, è popolare, quindi cattolica, cioè le cose vanno insieme, insomma. Scusa, lo slogan cos'è? Ognuno ha la sua croce, quotidiana, quindi cioè, per forza la croce tutti i giorni, insomma, capisci? La croce è proprio così. Ma scusa, hai già in mente il primo giorno su cosa aprirai? Credo ci toccherà qualcosa sulla Presidenza della Repubblica, tra l'altro, secondo me. Ma no, dai, anche sulla croce, no! Ti prego! Lasciamo la candidatura Cecchetto, cioè, voi dite, insomma, facciamo delle operazioni di popolare, a parte tutto, è una cosa seria, quindi seguiteci, saremo sorprendenti, questo vi assicuro e vi prometto, insomma. Cecchetto. Fitto pure, brava, questa è buona. Cicchetto e Cecchetto, vabbè, dai. A parte il Quirinale, sentite un po' Renzi. Ieri è andato da Fazio, ha parlato di chi ruba inizia a pagare. Insomma, un po', ecco, sentiamo un po' Renzi, dai. Stavo dicendo un po' i soliti slogan, però poi non l'ho detto. Ecco, quando ci sono le schifezze come quelle di Roma, l'atteggiamento di tanti è il groppo in gola, l'indignazione, e però passa la sensazione strisciante, tanto non cambierà mai. Per noi oggi deve essere chiaro che io non ho mai pensato che loro improvvisamente smettessero di rubare, però questa è la volta che iniziano a pagare. Costi quello che costi, le regole che stiamo cambiando servono esattamente. Iniziano a pagare le regole. Oggi Cantone dice, capo dell'articolo, corruzione sul decreto legge del governo che nessuno ben conosce per il momento, si poteva fare di più, però è già un passo avanti. Vabbè, però chi ruba paga. A proposito di Renzi, sentiamo invece Bersani che dice qualcosa su Renzi, vediamo a cosa lo paragona. Una grande determinazione, una grande energia, grande intelligenza, anche una grande potenza, insomma, ecco, sono quelle macchine da corsa, no? Qual è il problema di una Formula 1? Il problema di una Formula 1, che ha tanta potenza, è quella di scaricarla a terra. Questo modo anche efficace, eccetera, deve collegarsi di più alla realtà. Eccola lì, è Andinolfi. Ogni tanto, sai che c'è un retroscena sui bersaniani oggi sui giornali, eh? Questa oh, l'ho letta un anch'io. Retroscena sui bersaniani, dico io. Ma tu mi rompi le scatole sul Quirinale, dopodiché mi fai la passione sul retroscena. È sul Quirinale, ah, è sul Quirinale. Allora, vale, pare che Bersaniani, D'Alemiani, Sel, Grillini vogliano votare nelle prime tre votazioni, quando non verrà eletto nessuno, invece che scheda bianca, mettere Prodi, in modo da mettere un po' in difficoltà. Che piccola genialata, eh? Che compitatella, dai ragazzi, non sono le cose secche. Viene eletto chi prende almeno 535 voti. Appunto, allora, signori appunto. Miei, Prodi non li prende, punto. Cioè, non c'è questa ipotesi, no? Cioè, non parliamo delle cose che possono accadere, non delle cose che non però attenzione, accadere. Perché oggi c'è un'intervista su Repubblica, Berlusconi, Berlusconi che dice non ho il veto su nessuno, basta che sia una persona equilibrata, che rispetti tutti, che sia anche se è di sinistra, mi sta bene. Certo, così. L'accordo è sul nome del PD, ovviamente il PD esprime 400 grandi elettori, credo che tendenzialmente esprimerà il Presidente della Repubblica, ovviamente, insomma, non e queste sono le cose che bisogna cominciare a capire, la geografia parlamentare, vedi, perché spiegheremo con grande attenzione sulla croce, esatto, vedi lì, è un appuntamento imperdibile dal 13 gennaio, ma ormai il PD esprime 500 elettori in tutto, nel senso di elettorato, quindi non è proprio così, non hai proprio chiara la situazione, non è proprio così. Sì, non è proprio così. Tu dici così, no, ma poi scusami, chi l'ha vista l'intervista, magari qualcuno dei nostri ascoltatori ce lo può dire, ma quando Filippa Lagerbach ha introdotto Renzi, è appena uscito il suo ultimo decreto, come fa di solito, insomma. No, non lo so, io non l'ho vista, non lo so, Marione, tu l'hai vista? Io non mi perdo mai un'intervista di Renzi, lo sai, insomma, no? Sono afficionato per questo. La Lagerbach ha detto, ecco il presidente del Consiglio Matteo Renzi, una cosa sobria. Ah, sobria, istituzionale. E poi ha tirato fuori il chewing gum che abitualmente... No, questo non l'ha fatto. Quante chiamate sono arrivate nel frattempo, Marione? Siamo, mi pare 12. 12, no, vabbè, dai. Una meravigliosa che fa il mio telefonino ogni volta. Andiamo al traffico, poi c'è la segreteria telefonica, quella vera, ormai epurata dagli insulti ad Azionzi, eh. 24 mattino. Per l'ennesima volta vi dovete mettere in mente che il PD ha preso i voti votando Renzi, è Renzi che ha preso i voti, non il PD. Questo ve lo dovete mettere in mente. Sono del Sud, vorrei far sapere a Salvini che noi del Sud per la stragrande maggioranza abbiamo la fedina penale pulita, esattamente come quelli che si sono ingozzati al Nord alle spalle del Sud. Tranquilli, Benigni, Grillo, tutta questa gente qua serve solo per far parlare voi la mattina. Se mi aiuto, se mi è venuto, Beppe Grillo è rimasto sempre cornuto, nato, cresciuto e pasciuto. Mi te dici in confidenza che chi non tiene la scuffia, de tu squai che slapetten de su e de ciodo, ma perché gan la lingua in bocca. Adesso la ciappen anche con tel Benigni, stipo erba uscia, che avevano ragione quei che hanno scritto il libro intitolà La prevalenza del cretino. Te saluti e buon fest. Questo messaggio per Mario Adinolfi, che qualche giorno fa ha detto di voler bloccare la segreteria telefonica di Radio 24. Mario, vuoi bloccare veramente la nostra segreteria? Beh, e allora siediti sopra! Ma non sono meravigliosi, Vabbè. Però il livello della psicosi, ma... Vabbè, questa però non è malissimo, è un po' banalotta, è discriminatoria. Non possiamo fare che tutti sono discriminati e i ciccioni invece non si possono prendere per il culo, non è giusto, tutta discriminazione sono i ciccioni, dai, su. Vabbè, vabbè, vabbè, però, però c'era una sua creatività nel, non era quello che ti chiama a ciccione. Sì. Ah, quella è la creatività. Va bene. Dai, le ma bisogna pensare però che se uno si sfoga con insulto telefonico probabilmente non sono, non darà una sberla a un bambino. Bravo, brava, ma esattamente. Oh, ma è qua, ma stai. La creatività si sfoga in maniera innocua. Oh, ma lì accendi, beh, quello che dico, dico sempre anch'io, ma io, ma voglio dire, ma sai quante persone invece di andare dallo psicologo mandano una, un messaggio, sai quanto facciamo risparmiare? Certo, dispiace per gli psicologi, magari hanno, hanno meno lavoro, ma sai quanta gente chiama noi? Ma magari, magari gli psicologi li curano però, capisci? Sì, questa è una cosa no, però costano tanto di questi sai tempi, quanta gente sai quanta gente si sfoga con noi o con Adinolfi e quindi non fa una rissa al primo semaforo? No, ma anche con me quando mi mandano quei, quei tweet orrendi, mi insultano, anch'io penso filosoficamente che anche per oggi un bambino prenderà una sberla di meno e... Bravissima, bravissima, hai perfettamente capito il senso di questa cosa. Noi evitiamo risse tra automobilisti al semaforo perché la gente chiama noi, si sfoga con Adinolfi e via. Voi non volete bene la gente, date il vostro cellulare e vedete come è divertente, dai, fallo via. Ma hai ragione, hai ragione, hai ragione. Allora lì a Celi 335 provate il contatto, fate il bagno di polla col vostro pubblico che amate tanto, dai dai, gioca, gioca. Vabbè, vabbè, allora non è che dobbiamo per forza seguirti in tutte le follie che fai, non è che no, dobbiamo fare anche un seminario con Adinolfi che ci insegna come appunto reggere e gestire questa andata con la gente che amate tanto, dai. Ma dimmi un po', ma dai, ma non c'è un momento in cui ti innervosisce questa cosa alla ventesima telefonata? Allora c'è qualcuno a cui comincio a non rispondere, ammetto che ho cominciato ad avere questo momento di, io ho risposto veramente con Marco a tutti, compreso WhatsApp, perché sono i tirchi che usano WhatsApp, capito? No. Sai che una volta lì c'è uno che si è arrabbiato tantissimo perché non l'ha richiamato dicendo che fai, che fai, non mi richiami? Non mi richiami. No, ma adesso non era una battuta. Io ci credo veramente, dopo un po' di mesi di questo trattamento Adinolfi avrà una grandezza d'animo tale, una magnanimità che potrà veramente non dico presidente della Repubblica, ma Papa succedere a Papa Francesco. Sì, comunque scusate, devo dire questa cosa. Allora intanto un ascoltatore che ci dice mi ridate il numero, non l'ho scritto bene. Vabbè, però adesso basta. 334 37 98 534. Basta. Dopo però spiegate, lo dovete chiamare dopo. E ci sono un profluvio di messaggi a dire spiegate l'aumento delle tasse, altro che Quirinale. Beh certo, ma tanto c'è la rassegna stampa, alle 7:15 poi le spieghiamo, poi alle 8:15 parliamo di tasse ancora, e quindi mica il Quirinale, qua si fanno cose serie. A proposito, informa l'edicolante che dal 13 gennaio deve mettere un giornale in più per la rassegna stampa. Va bene, informiamo qui in mazzetta la croce, la croce al 13 gennaio. Allora, mi ha colpito molto questa storia di Salvini, che va al sud. Sentite, ha colpito molto anche chi Vendola, credo. Sentite Vendola come la tocca piano. Fatto che Salvini al nord recluti fascisti e nazisti e al sud recluti, diciamo, tutto il ceto politico trasformista, i riciclati, è un pericolo Salvini, ovviamente. Fascisti, nazisti e poi riciclati, vabbè, li accendi, riciclati direi che sono un po' meno gravi, mi sembra di capire, no? In questa combriccola. Secondo me ormai bisogna dire però che Salvini con quegli addominali ormai può dire ciò che vuole, dopo essersi esposto in questo modo così. Quanti voti prenderà? No, quanti voti prenderà il sud? Questa è la questione. Cioè la Lega al Sud, perché è una cosa ancora che mi sembra ne prende tanti. Ne prende tanti tanti, però ricordatevi che avrà sempre un, cioè la Lega ha avuto il massimo momento storico 10% nazionale. Secondo me Salvini è in grado di portare la Lega oltre il 20% nazionale, che sarebbe una cosa colossale, ma è sempre un partito d'opposizione. Allora io consiglio caldamente alla sinistra di non avere l'atteggiamento di Vendola, cioè cominciare con la demonizzazione serve a portarla al 40. Quindi insomma non è che poi dopo, no, come si è visto, è vero, con Mafia Capitale, d'accordo, quelli che votano a sinistra sono tutti buoni e santi, insomma gli impicci, i riciclati, i mondi, sì, diciamo contigui con affari. Quindi non demonizzarlo, non iniziare a dire un fascista, un nazista. Basta, ma questo atteggiamento di superiorità è proprio stupido, perché infatti non è calato nella realtà, la superiorità non esiste, per cui l'atteggiamento spocchioso di dire è veramente un errore, perché rischia di rafforzarlo enormemente. Io che non sono neanche lontanamente leghista, dico, Salvini è un leader che sta dimostrando capacità, credo che abbia una capacità di espansione al massimo livello del 20-25% nazionale, quindi non, di più. Non da forza di governo, non fate in modo, ragazzi, che però 20-25 sarebbe incredibile, sarebbe una cosa incredibile a livello nazionale. Scusate, però finora Salvini non ha né attraversato lo stretto a nuoto, non ha neanche comprato una casa a Lampedusa che poi ha lasciato andare in rovina, questo ne fa già il leader contemporaneo più serio che si è rivolto al sud rispetto a alcuni stati. Eccola, ce l'aveva con Beppe Grillo. Così, ecco, vuoi dire qualcosa contro Beppe Grillo, che ti allietano la giornata su Twitter quelli lì? Sono... Sì, e subito dopo il cellulare. In genere lo faccio con Vincino, che dice le peggio cose e poi gliele twitto e poi passa le giornate. Però secondo me gli stanno facendo vivere una seconda giovinezza, Vincino, perché poi twitta tutto il giorno anche lì. E vuoi dire qualcosa contro il Movimento 5 Stelle? Sono pronto a twittare. Lì a Cedi. No, non posso dire niente su Grillo, perché ho mangiato a casa sua tanti anni fa, quindi non posso parlare male di loro. Mi ha offerto delle ottime penne all'arrabbiata per lavoro, ero a casa sua, ma quando ancora stava bene, diciamo così. Vuoi dire qualcosa allora contro quelli del Movimento 5 Stelle? Guarda, cosa ti posso dire? Sono così pittoresca, mi sarei aspettata come dire, la replica della compagnia dell'Arancia, no? Questa nuova, questa compagnia di musical italiana che sa sognare. Speravo in una continuità col Movimento 5 Stelle, ma mi sta deludendo. L'ultima performance, non sono. Ah, vabbè, insomma, questa era tipo Her all'italiana, no? Sì. Vabbè, potevi essere un po' più dura, però insomma, questa cosa non ti farà. È Natale, poi. No, se mi danno però magari il cellulare di Battista, se può parlare. Di Battista, gli piace Alessandro Di Battista, ti piace? No, giuro che lo insulto, magari gli piace, non lo so, potrebbe essere una cosa così stimolante, stuzzicante. Vabbè. No, vabbè, poi niente. Le signore ringraziano, se date il cellulare di Battista, non solo io, ma molte altre signore potrebbero. Vabbè, non è che possiamo dare il cellulare delle persone così, è un po' un reato. Però a Adinolfi invece ha voluto. Potresti fare un piccolo ascolto, però. Dice, oggi vi diamo i cellulari e cominci, capito? Dico, due o tre politici. Abrignani, il primo parlamentare con la Abrignani. Sì. Quelle cose che avrebbe fatto un Vittorio Feltri dei bei tempi prima di andare al Quirinale, secondo me. Ma questo anche cuore, il cellulare di Vittorio Sgarbi, se ricordo bene, negli anni 94. Ma com'è finita? Com'è finito il cellulare? Era il cellulare sbagliato. Ah, ecco. Vabbè, no, allora... il problema è che quando tu chiami Sgarbi che insulta te, non sei tu che insulta lui. Sì, Sgarbi è notorio. Vabbè, sentiamo allora in chiusura, visto che abbiamo parlato tanto di Quirinale, Giorgio Napolitano, eccolo lì, lui che ha detto largo ai giovani, che ha detto in bocca a Napolitano, insomma. Vabbè. Molti giovani che in vari campi prendono l'iniziativa, non aspettano e inventano, come hanno inventato loro, questo ruolo di cantanti anche di cose italiane fuori d'Italia, che è stata una bella idea. Vabbè, Mario, non lo so, non so neanche. Vabbè, dai, ho tanto un saluto al presidente Napolitano, che ha fatto un lavoro fatico, insomma, comunque la si pensi, pensare che a 90 anni da lì, insomma, ha fatto un lavoro faticoso in 8 anni e mezzo complicatissimi per la storia italiana. Vedremo quello che accadrà. Fatemi fare gli auguri a tutti gli italiani che non mi telefoneranno, qualcuno ce ne darà. Beh, certo, sì, sicuramente. Auguroni, un buon Natale di Gesù a tutti. È stata sicuramente un'esperienza questo 2014 con voi delle 24 mattina straordinaria. Ci sentiamo dopo. Praticamente sta dicendo che non ti possiamo chiamare. Ma scusa, ma no, dai, no. Ma no, dall'8 gennaio, scusa, dall'8 gennaio poi qua riprendiamo. Certo, ma scusa, poi ti chiamerò direttore dal 13 gennaio. Direttore, come stai? Per favore, fra 8 e 13 l'ultima telefonata, ok? Grazie. Vabbè. Ciao, buon auguri. Ciao. C'è chi ci dice, ci dà il cellulare di Renzi, ci chiedono. Ce l'ho, però insomma, ecco, dai, magari la prossima. Ve lo do mischiato. Va bene, ciao a tutti. Ciao, auguri. Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan. che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui, sono le 7:17 minuti e l'86esima settimana. No, 87. Oddio, ho perso. No, 86. Oh mamma mia, ho perso il conto. Oh mamma mia, l'ho twittato poco fa. No, 86esima settimana decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province è cominciata. Ho perso il conto. Guardami un po' se l'86esimo. No, sì, è l'86esima. Sì, fidati. È l'86esima settimana decisiva. Vabbè, comunque, noi oggi di cosa parleremo? Oggi parleremo di coloro. Avremo una storia da raccontare. La storia di una imprenditrice, Chiara Rizzi. Fa tatuaggi e ha deciso da un anno pubblicamente di dire: non pago più le tasse. L'avremo ospite alle 8:15, avremo insieme a lei ospite il sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, un tema che in realtà possiamo allargare a tutti voi nel giorno in cui si sta approvando definitivamente la legge di stabilità e di tasse si parla, come vedremo tra poco anche in rassegna stampa, parleremo di questa vicenda che riguarda una signora di Padova, ma riguarda anche molti italiani. Dalle 8:15, intanto la conferma è ufficiale, siamo nell'86esima settimana decisiva, i giornali. In questo lunedì 22 dicembre, le aperture, il Sole 24 Ore fa un po' le pulci alla manovra, la manovra che verrà approvata forse oggi, forse domani, definitivamente alla Camera, dopo l'approvazione notturna al Senato. Tasse, tagli e bonus, il conto della manovra, stabilizzati gli 80 euro, stretta sui minimi, fatture alla pubblica amministrazione. La stampa, lavoro con il bonus, assumere costa meno, ecco i nuovi contratti, mentre il giornale, sotto l'albero 50 miliardi di tasse, anche se ieri il ministro dell'economia Padova ha detto meno tasse con questa manovra. La politica invece per Repubblica, che propone un'intervista a Silvio Berlusconi. Berlusconi è il colle, non metterò veti a un candidato PD, questo è il titolo di Repubblica. Il Corriere della Sera invece va all'estero, New York, rivolta degli agenti dopo i due poliziotti uccisi, proteste contro il sindaco De Blasio. Per il Messaggero, rivoluzione per fisco e comuni, mentre il Secolo XIX a rischio il bonus autonomi, questo è il titolo di prima pagina. Il Fatto Quotidiano invece, l'edizione del lunedì, sapete, è monografica, un po' dedicata a temi di più ampio respiro. C'è un'intervista a Sante Notar Nicola, ex luogotenente della banda Cavallero, che dopo 30 anni di carcere racconta così si rapina una banca. Questo è il titolo di prima pagina del Fatto Quotidiano. Tutto il racconto dei colpi e cosa si prova quando, pistola alla mano, si rapinavano le banche. Voglio però partire dalla cronaca. Tutti i giornali dedicano con grande attenzione pagine a quello che è successo ieri, un vero e proprio attentato sulla linea ferroviaria Firenze-Roma. Due Molotov contro la TAV, volevano paralizzare i treni. Questo è il titolo di Repubblica, pagina 10. 10:11, è stata bruciata una centralina, sono state trovate due bottiglie Molotov alle 5:30 di ieri fuori dalla galleria San Donato, periferia di Firenze, zona Rovezzano. Passano da questo tunnel di 11 chilometri sulla direttissima i treni ad alta velocità, oltre a qualche treno regionale. E racconta Paolo Griseri su Repubblica: mai come in questa occasione gli inquirenti si occupano di TAV e sono prudenti. La tentazione però è forte, qualcuno alla fine lo dice chiaramente. Ecco gli effetti della sentenza di Torino. È scattato il liberi tutti. Questo insomma si pensa e si argomenta non senza elencare casi e circostanze. Il riferimento alla sentenza di Torino e il giudizio della Corte d'Assise del Piemonte, che il 17 dicembre scorso, quindi 5 giorni fa, ha scagionato dall'accusa di terrorismo i 4 anarchici arrestati per aver organizzato un assalto notturno al cantiere della TAV di Chiomonte in Val di Susa. In quell'occasione erano state lanciate alcune Molotov mentre gli operai lavoravano all'interno della galleria geognostica. Erano stati bloccati i cancelli coi lucchetti, gli assalitori si erano divisi in gruppi per attaccare da più parti contemporaneamente. Insomma, avevano usato anche SIM diverse dalle loro per comunicare senza essere intercettati. Questo, secondo la Procura di Torino, è un'azione di tipo terroristico. Secondo la Corte d'Assise, invece, si trattava di un semplice atto di danneggiamento. Il risultato, secondo molti inquirenti, scrive Repubblica, è ora che il messaggio passato è che sono stati assolti dall'accusa più grave. Per questa ragione può scattare una sorta di senso di impunità. Tanto basta per dare il via ad azioni simili. Questa potrebbe essere una lettura. D'altronde la tecnica, bottiglie incendiarie come quelle trovate il 18 dicembre, cioè il giorno dopo la sentenza di Torino, lungo la linea ad alta velocità Milano-Torino vicino a Novara. Anche in quel caso, come a Firenze, una era esplosa, l'altra era integra. Anche in quel caso le bottiglie erano state messe lontano dai binari. Per il giornale il titolo a pagina 5 è proprio chiaro: gli attentati ai treni dei non terroristi. Così si lega questa vicenda di ieri con la sentenza di 5 giorni fa a Torino. Anche la Stampa: attentato contro l'alta velocità, volevano paralizzare l'Italia. Qui c'è una lettura meno legata alla sentenza. Comunque questo certamente preoccupa non poco gli inquirenti, come invece preoccupa non poco l'articolo sul Corriere della Sera e il Messaggero legato alla vicenda Mafia Capitale e che riguarda il prefetto di Roma, Pecoraro, perché il prefetto di Roma, Pecoraro, che era andato in commissione antimafia e alla domanda precisa su lei ha mai ricevuto Salvatore Buzzi, uno dei maggiori indagati, quello che era capo della cooperativa 29 giugno, rispose: è vero, ho ricevuto Buzzi ma non sapevo nemmeno chi fosse. Già qui uno si può chiedere come si possa accedere a un prefetto senza con poi il prefetto che dica l'ho ricevuto ma non sapevo nemmeno chi fosse. Con il problema vero, ha detto il prefetto, è la facilità con cui si può arrivare alle istituzioni e l'assoluta mancanza di controlli. Questo lo riconosce evidentemente lo stesso prefetto. Se si può arrivare al prefetto e avere un ricevimento con lui, con poi lui che dica non sapevo neanche con chi stessi parlando, in pratica. Comunque anche la prefettura diede il via libera alle cooperative guidate da Buzzi. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che accende un po' i riflettori sul ruolo del prefetto di Roma, perché Fiorenza Sarzanini scrive anche in prima pagina: il prefetto di Roma Pecoraro finora ha sempre smentito, anche davanti alla commissione antimafia, ma spunta una lettera scritta il 18 marzo scorso con cui la prefettura da lui guidata diede il via libera alla stipula di una convenzione con la cooperativa di Buzzi per la gestione dell'emergenza legata all'arrivo di profughi a Castelnuovo di Porto. Proprio quel giorno Pecoraro aveva incontrato Buzzi in prefettura. Allora eccolo qui a pagina 5: la prefettura diede il via libera alla cooperativa guidata da Buzzi alla stipula di questa convenzione, e c'è un documento datato 18 marzo 2014 che viene riprodotto e che sembra smentire la versione ufficiale fornita dal prefetto Pecoraro, che aveva detto subito e poi ribadito in commissione antimafia di avere rifiutato la proposta di Buzzi. Anche per il Messaggero il titolo è questo: quella lettera della prefettura per scegliere la coop di Buzzi. Ora il prefetto smentisce dicendo: ma quella è una lettera che abbiamo spedito un po' a tutti i comuni per capire se ci fosse la disponibilità dei comuni di ricevere comunque degli immigrati. Sta di fatto che le polemiche inevitabili finiscono sui giornali. Se volete, c'è anche la polemica del Giornale che torna sulla questione Benigni. Per carità, nulla di illegale, ma Luca Fazzo va a fare i conti. E il titolo è: così la vita è bella, parodiando il più celebre successo di Roberto Benigni. I conti della Benigni S.P.A., soldi e giochi di società, l'impero della Benigni S.P.A., il premio Oscar e la moglie Nicoletta Braschi solo con la Melampo cinematografica fanno utili per 2.700.000 euro e collezionano anche proprietà, hanno 20 terreni e 21 fabbricati. Ma beati loro, ma io non capisco insomma, quando c'è questa cosa tutta un po' italiana, una sorta di invidia sociale, accanimento. Benigni e la moglie hanno 20 terreni, 21 fabbricati e ogni anno fanno utili per 2 milioni e 700 mila euro. Un'intera pagina del giornale a pagina 15. L'unico commento che mi viene da fare, ripeto, è beati loro. Tutto qui. Ma siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare di questa settimana. Subito il lunedì e siamo sul Messaggero con Antonio Calitri che ci racconta cosa? Ci racconta che i partiti sono con le casse allo stremo. Non hanno più un euro in cassa, partiti poveri. Allora che cosa stanno pensando, lor signori? Ora rispunta il finanziamento pubblico. La politica corre ai ripari. L'ultima vicenda è quella di Forza Italia, una volta al partito con più fondi, grazie al denaro che metteva Silvio Berlusconi, ora costretto a fare meno di 55 degli 86 dipendenti, tutti licenziati. Le casse sono vuote in tutte le sedi della politica. Pensate che il 2 per 1000, che è stato stabilito da Enrico Letta, ha visto solamente 16.518 italiani che hanno fatto questa scelta. Solo 16.518 italiani hanno deciso di firmare per il contributo ai partiti per un totale di 325.000 euro. Quindi le casse piangono e i partiti, scrive il Messaggero, hanno un'idea. Eccola l'idea! L'idea è quella di ripensare una sorta di finanziamento pubblico, ripristinando parzialmente quei finanziamenti che sono stati tolti. È dura, È dura capire e vedere che gli italiani, ma chissà perché, non firmano il 2 per 1000 per dare soldi ai partiti. Insomma, il nostro Oscar Giannino dov'è? Alessandro Milan, il flagello di Dio dell'informazione. Beh, sì, a parte l'audio un po' disturbato, però l'idea c'è. Siamo qui, sono le 7:30 minuti e scomparsa la pubblicità, cari ascoltatori. E allora continuiamo a leggere i giornali, ci sono tante notizie ovviamente che vi vogliamo leggere. Oggi è scomparso anche Mauro Meazza, debo sciume al Sole 24 Ore dopo questo pareggino con la Lazio in casa. Comunque lo ritroveremo dopo le vacanze di Natale, ovviamente. Allora, le tasse. So che da quando è iniziata alle 6:30 tutti dicono: dici che cosa sta succedendo sulla legge di stabilità. Io lo dico attraverso la lettura dei giornali, vi racconto quello che ci raccontano oggi. Allora, cominciamo da pagina 12 del Corriere della Sera, dove Mario Sensini dedica una pagina alla legge di stabilità. Legge di stabilità che, ricordiamo, va approvata in via definitiva alla Camera, ora senza modifiche, altrimenti non c'è poi più tempo per rimodificarla al Senato. Da ieri mattina la legge di stabilità è passata per la terza lettura all'esame della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. 130 emendamenti presentati e poi bocciati. Il governo non dovrebbe porre la fiducia. Tra l'altro c'è stata anche durante l'assemblea sulla commissione alcuni deputati grillini che hanno registrato all'insaputa dei colleghi coi telefonini la riunione, ha messo tutto su YouTube. Comunque, in serata la manovra è uscita dalla commissione, è arrivata in aula e il semaforo verde alla legge attesa per stasera o al massimo domani. Come scrive Sensini, sarà come guidare un tir in una strada di montagna, con gli occhi fissi sulla carreggiata, senza distrazioni, attenti a evitare ogni minimo rischio per non scivolare giù. Ecco la legge di bilancio 2015 di fatto nel cassetto, ma per il ministro dell'economia Padoan il difficile comincia ora. La scelta di Renzi di sfruttare ogni spazio di bilancio per rilanciare l'economia è stata condivisa, ma non lascia grandi margini di sicurezza sul deficit pubblico. L'Unione Europea, sappiamo, è in pressing, ci attendono gli esami di riparazione di fine marzo. E soprattutto, eccolo qui, cari italiani, se non funziona la spending review, cioè i tagli di spesa, eccole le solite clausole di salvaguardia. La manovra contro l'evasione IVA non funziona? La spending review non funziona? Semplice, in automatico scatta l'aumento considerevole delle accise sui carburanti e dell'IVA. Le accise potrebbero salire di 1,7 miliardi già dal 2015. L'IVA addirittura potrebbe salire fino al 25,5% con un aggravio fiscale totale di 8 miliardi l'anno a regime. Questo se non funzionano i tagli del governo. Insomma, come ho scritto su Twitter in maniera un po' grezza, il culo è parato, cari italiani. Ovviamente il culo dello Stato, non il nostro. Questo sia ben chiaro. Però il culo è parato, cioè scatti di accise e aumento di IVA se non si riescono a fare le cose che Renzi ha promesso di fare. Il Sole 24 Ore oggi dedica molte pagine proprio all'esame della manovra, che ovviamente ha bisogno dell'approvazione finale, la legge di stabilità. Nella versione definitiva lascia sul terreno vincitori e vinci, come vinti, come racconta a pagina 2 il Sole. Il quadro completo riportato nelle pagine vede tra i vincitori sicuramente i beneficiari del bonus di 80 euro confermato nella manovra, anche se alla fine sono mancate le risorse per estenderlo per esempio ai pensionati. Accanto a loro ci sono i 330.000 beneficiari del bonus bebè, che hanno visto la riduzione della soglia d'accesso a un ISEE di 25.000 euro rispetto ai 90.000 di reddito inizialmente previsti. Le famiglie incassano anche un altro anno con la proroga dei bonus sulle ristrutturazioni edilizie, il risparmio energetico, l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, tutte misure che danno una boccata d'ossigeno a due settori industriali come l'edilizia e l'arredo. Poi però, per esempio, lascia amaro in bocca la questione del TFR, come scrive il Sole, cioè il TFR verrà anticipato in busta paga a partire da gennaio, ma con la tassazione ordinaria, attenzione, non la tassazione ridotta del TFR, cioè se volete il lavoratore dipendente potrà decidere se prendere il TFR, la quota mensile di TFR a partire da gennaio del 2015, ma la tassazione sarà la tassazione ordinaria, non la tassazione speciale a cui è sottoposto il TFR. Quindi volete i soldi subito ma tassati di più, oppure ve li tenete nel TFR finale. E su questo c'è un approfondimento del Sole a pagina 5 sull'anticipo del TFR, la zavorra dell'IRPEF ad aliquota ordinaria, e ci sono tutti i meccanismi di quello che è previsto dalla legge di stabilità, che ripeto non può essere cambiata, quindi di fatto sarà questa. Il Corriere, per tornare sempre alla questione tasse, poi apre un capitolo con Dario Di Vico sulla questione delle partite IVA. Pagina 13. Alla fine il governo Renzi ha deluso profondamente partite IVA e freelance. Il titolo è questo: il premier e le partite IVA sedotte ma deluse. Come era avvenuto per il governo Monti, anche il nuovo esecutivo aveva fatto capire a parole di voler sfidare il potere di veto dei sindacati confederali e in parallelo di voler aprire alle istanze del lavoro indipendente. E per far passare questo messaggio si erano utilizzate a uso delle televisioni anche le slide della conferenza stampa di Palazzo Chigi, ricordate? Ma anche stavolta alle parole non sono seguiti i fatti. Sulla rete rimbalza la delusione delle piccole associazioni che si sforzano di rappresentare il lavoro professionale autonomo. Siccome le partite IVA non sono come i forconi, non si può parlare di blocchi stradali o di violenza di strada, ma stavolta si ha l'impressione che qualcosa accadrà, almeno sul piano di comportamenti fiscali e contributivi. E noi ricordiamo che parleremo proprio di chi alle 8:15, di chi ha deciso di non pagare più le tasse, pur portando avanti la propria attività. Due, racconta Dario Di Vico, le scelte che alimentano il casus belli delle partite IVA. Uno, la legge di stabilità nella versione approvata al Senato non ha bloccato l'aumento dei contributi alla gestione separata dell'INPS e ha dato via agli aumenti decisi proprio dal governo Monti. Dunque dal 1 gennaio 2015 si passerà dal 27,72 al 29,72 e poi un punto l'anno fino ad arrivare al 33,72%. Tasse. B. La legge di stabilità modifica il vecchio regime dei minimi adottato sotto la gestione Tremonti, che aveva scelto un forfettone semplificato a 30.000 euro con prelievo del 5%. Ora i minimi sono cambiati. L'asticella è stata abbassata per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, d'istruzione, servizi finanziari e assicurativi a 15.000 euro con una tassazione del 15%. Nella sostanza una mini stangata che contrasta con lo slogan governativo dell'abbassamento della pressione fiscale. Tasse, tasse, tasse, è sempre così. Però il ministro dell'economia Padoan dice: ridotte le tasse. Con questa manovra, tra oggi e domani, il via libero definitivo di Montecitorio e le tasse sono state ridotte. Ci saranno meno tasse, più reddito, consumi, quindi più lavoro, dice Padoan. Con l'approvazione del provvedimento cambia molto. Le imprese hanno tagli di imposte con pochi precedenti, sono finalmente permanenti gli 80 euro di bonus per i lavoratori, le privatizzazioni vanno avanti, a breve l'Enel, poi le poste, poi le ferrovie. Questo ha detto Padoan. Sul giornale invece il titolo di prima pagina è: altro che tagli, tasse per 50 miliardi. Ah, il canone Rai, abbiamo scherzato, eh? Vi ricordate che proprio qui a questi microfoni, 24 mattino, il sottosegretario Giacomelli ha detto: da gennaio in bolletta e si pagherà meno, 65 euro circa. Renzi ieri si è accomodato nel salotto di Fabio Fazio, che tempo che fa ha detto: il canone Rai, era una bella idea, quella della bolletta, ma al momento problemi tecnici ci hanno fatto rinviare tutto. E quindi rimane a 113, quello che è, 113 euro, rimarrà l'alta evasione fiscale, eccetera, solite questioni. L'anno prossimo, dai, è partito il primo anno decisivo per la riforma del canone della RAI. Vedremo, sempre ottimismo, vedremo l'anno prossimo come va. Per quel che riguarda invece i dipendenti delle province, oggi c'è il sottosegretario Rughetti, ce ne siamo occupati settimana scorsa. Il sottosegretario Rughetti, a pagina 13 del Corriere, dice: è il sottosegretario alla funzione pubblica, sui dipendenti delle province decideranno le regioni. Ecco qui, siamo passati da chi definiva la riforma delle province una farsa a chi ora ne verifica con stupore gli effetti su 20.000 persone. La riforma c'è, va solo governata. L'equivoco che ha generato questa agitazione dei dipendenti delle province nasce dal protagonismo dei territori, alcuni dei quali non collaborano, addirittura strumentalizzano la protesta. Per esempio ce l'ha con le regioni a guida leghista, che hanno già detto che non assumeranno il personale delle province. Già, risponde Rughetti, ma il 2 gennaio ci sarà un decreto che imporrà alle regioni di scegliere se acquisire le competenze delle province e il relativo personale o lasciarle alle province e ai comuni, e se le delegano dovranno fornire le risorse per gestirle. Quindi comunque il carico economico sarà delle regioni? Esatto, già oggi le province svolgevano funzioni delegate dalle regioni. Così il sottosegretario Rughetti, intervistato da Antonella Baccaro per il Corriere, dunque dice: le regioni non facciano le furbette, o assumono il personale oppure danno i soldi alle province per gestire le funzioni che le province devono gestire. Intanto non buone notizie, racconta La Stampa, per i professionisti, architetti, ingegneri, avvocati, notai. C'è questa ricerca. Una ricerca che dice, sancisce questo: i professionisti sono i nuovi poveri, redditi sotto i 30.000 euro, soprattutto le giovani leve sono al palo, sotto i 40 anni guadagnano la metà dei colleghi anziani. Giuseppe Bottero e Marco Sodano raccontano: studiate, conquisterete una posizione, la solidità economica, potrete entrare nel mondo dei professionisti, tra notai, architetti, avvocati, ingegneri. Poi la crisi, è la crisi che ha cambiato il mondo, ha cambiato anche questo mondo, e nel 2015 il reddito medio dei professionisti italiani si fermerà sotto i 30.000 euro, dopo essere già sceso negli ultimi 7 anni del 15%, con punte che arrivano al 24%. significa aver visto sfumare un quarto dei propri guadagni. È il dramma parallelo a quello della disoccupazione, quello dei poveri che lavorano, le persone che guadagnano meno di 6,90 euro l'ora. E tra questi ci sono proprio i professionisti giovani, che continuano a crescere. Nel corso del 2013 gli iscritti agli ordini in Italia sono aumentati del 15,7%. Ma guadagnano sempre meno, sfiorano il limite della sussistenza. E soprattutto gli incassi di quelli che hanno meno 40 anni sono inferiori del 48% rispetto ai quelli dei colleghi over 40. Studiate, studiate la professione, diventate professionisti. E poi i risultati sono questi. Eppure, vedete, gli italiani continuano a iscriversi all'ordini, più 15,7%. Evidentemente va bene così. Intanto fa specie in questa giornata leggere due pagine intense del giornale, un'inchiesta su coloro che vanno a investire in Albania. Eccolo qua, imprenditori, cuochi, prof, ora gli immigrati siamo noi. Hanno trovato lavoro, uno stipendio dignitoso, un paese in crescita che sostiene gli investimenti, ma non è un paradiso. La parentopoli è ovunque, la corruzione è diffusa. Questo è lo spaccato che Riccardo Pellicetti fa da Tirana, dove raccontano la storia di un architetto, di un cuoco, di un imprenditore, di un giornalista, di un insegnante. Tutti hanno lasciato l'Italia tra mille difficoltà per decidere di andare a lavorare in Albania. Albania a burocrazia zero, là dove un'impresa si apre in un giorno. Il segreto dello sviluppo è questo: flat tax al 15%, basso costo della manodopera. Si sono già trasferite 20.000 italiani e 400 aziende lì. C'è tutto un focus sull'Albania del perché molti italiani hanno deciso di andare in questo paese che è a poche centinaia di chilometri oltremare dalla Puglia. Da noi, questo lo trovate sul giornale. Vi è mancato il chiacchiericcio della politica? Faccio sempre questa domanda, ma dopo il traffico un po' ci sarà. 60.000 insonne dell'informazione. Io insonne, ma tu debosciato, caro ascoltatore, mi pare di capire. Allora, il chiacchiericcio della politica. Oggi, quando ho visto tre pagine del Corriere della Sera dedicate alla corsa per il Quirinale, una corsa che ci sarà quando? Boh, non si sa, da metà gennaio, poi si voterà forse a fine gennaio, se Napolitano si dimetterà come si presume attorno a metà gennaio. Tre pagine dedicate a questo sul Corriere, una pagina sull'aumento delle tasse e la legge di stabilità. Ecco, comunque, a parte questo, a parte le mie sterili soldi polemiche, inutili anche, pedanti anche, noiose pure, per dire, ieri Renzi è andato da Fabio Fazio, come detto, ha parlato anche della corsa al Quirinale, maggioranza ampia per il Quirinale, neanche il PD ha il diritto di veto. Questo è il titolo di pagina 9 del Corriere della Sera. Invece a pagina 10 c'è una pagina per la linea Bersani e il Colle, serve una figura autonoma, tra l'altro tutti a interrogarsi sul perché Bersani abbia detto che cosa? Ha detto: abbiamo bisogno di uno che sappia tenere il volante perché siamo ancora nelle curve, uno che mastichi di economia. E si riferiva forse a Romano Prodi? Tutti a interrogarsi. Mentre invece è stato più esplicito Roberto Calderoli, che ha detto: ma io vedrei bene un Vittorio Feltri al Quirinale, oppure un imprenditore come Bernardo Caprotti, che ha messo in piedi Esselunga. Ecco. Questo è Roberto Calderoli, mentre Silvio Berlusconi fa un qualcosa che di questi ultimi tempi si vede raramente, cioè un'intervista. Intervistato da Claudio Tito su Repubblica lo intervista a pagina 2-3 Silvio Berlusconi. Il titolo è questo: Berlusconi apre a Renzi e non esclude il candidato PD. L'importante che sia garante, non importa se è di sinistra. Intanto esordisce: tutti mi chiedono come sto e come vogliate che stia, in libertà condizionata. così Berlusconi. Fino ad allora preferirei non fare interviste, ma poi fa un'intervista. Dice: ma guardi, nei giorni scorsi mi hanno anche attribuito l'indicazione di Giuliano Amato, ma non è vero. Io ho tracciato un identikit e ho sempre pensato e ancora penso che il Presidente della Repubblica debba essere una persona equilibrata, seria, competente, che non stia da una parte sola. Riguardo ai nomi, qualunque cosa dica verrebbe interpretata come il tentativo di bruciare questo o quel candidato. Io non voglio bruciare nessuno, non intendo fare liste prima che l'argomento debba essere affrontato ufficialmente. E poi arriva una domanda che pone una questione che a questo punto diventa definitiva con la risposta. La domanda di Claudio Tito è questa a Berlusconi: il Quirinale fa parte del patto del Nazareno? E Berlusconi, sentite cosa risponde: no, non ne fa parte. Dico solo che votando insieme la nuova Costituzione si può votare insieme anche per il Quirinale. Ne ha già parlato con Renzi? No, ma vedo che il Presidente del Consiglio continua a dire che il successore di Napolitano va scelto col concorso di tutti, col concorso nostro, della Lega, del Movimento 5 Stelle, ed è giusto così, siamo d'accordo. È sicuro lei di portare con sé l'intera dote dei 150 grandi elettori di Forza Italia? Non mi pare ci siano divisioni, risponde Berlusconi. E poi spero di tornare in pista. E alla domanda di Tito, perché dice spero? Perché i magistrati devono decidere se applicarmi lo sconto di 45 giorni ogni 6 mesi di pena. Non ho dubbi che lo faranno, la mia buona condotta non è in discussione, sono stato assolutamente ligio alle direttive, non sono mai mancato un giorno nell'espletamento del mio servizio sociale e lì alla Sacra Famiglia sono proprio contenti di quello che ho fatto. Nessuno si è lamentato, quindi spero che a febbraio io potrò tornare in pista. Ora devo salutarla, non mi faccia dire niente. Vabbè, insomma, in realtà ha fatto un'intervista a pagina 2-3 di Repubblica. Comunque questo Silvio Berlusconi che ora dice va bene anche che sia di sinistra, insomma una persona equilibrata per il Quirinale. Vabbè dai, finiamola qui con la politica. Andiamo a guardare che cosa succede all'estero. All'estero c'è molta preoccupazione, soprattutto a New York. A New York, dove un folle ha ucciso due agenti di polizia sparando loro a bruciapelo, avvicinandosi alla macchina in pieno centro a New York, poi braccato, inseguito, si è suicidato sparandosi in testa in metropolitana. Che succede? Succede che ora c'è la rivolta degli agenti di polizia nei confronti del sindaco di New York, De Blasio. Colui che aveva detto anche quando era morto il nero, quello strangolato durante una fase d'arresto: io ho detto a mio figlio, che è nero, di stare sempre molto attento quando incrocia la polizia. Ora la polizia si sente tradita. Un gruppo di poliziotti che volta la schiena al passaggio del sindaco. È questo il simbolo, come scrive Repubblica con Alberto Flores d'Arcais, è l'immagine simbolo di New York City nel day after del duplice omicidio a sangue freddo di due agenti del New York Police Department. È una frattura grave nelle istituzioni della metropoli. Bill de Blasio è sotto accusa, è bersaglio della destra politica, di una parte dell'opinione pubblica, dei tabloid, ma soprattutto da chi è chiamato ogni giorno a combattere il crimine. Sono molte le mani sporche di sangue, a iniziare da quelle del sindaco, urla in TV Pat Lynch, che è il presidente dell'associazione che raccoglie 12.000 poliziotti. È l'uomo che voleva proibire a De Blasio di partecipare ai funerali degli agenti morti in servizio. Anche il Corriere della Sera dedica una pagina a questo, un tema molto, molto duro. Dedica addirittura l'apertura, il Corriere della Sera, pagina poi 2 e 3, su New York, la rivolta degli agenti nei confronti del sindaco. Gli agenti girano le spalle al sindaco, rabbia e bandiere a New York. Dopo che all'incrocio tra Myrtle and Tompkins Avenue alle 15 di sabato pomeriggio questo giovane afroamericano di 28 anni, Ismail Brinsley, si è avvicinato alla macchina della polizia, ha tirato fuori una pistola e assassinato a sangue freddo Wenjian Liu, 32 anni, e Rafael Ramos, 40 anni, sposato, due figli. La rabbia della polizia gelida come questa domenica mattina nella grande mela con le bandiere a mezz'asta. Non vale a nulla la commozione del sindaco De Blasio, che piange in conferenza stampa dopo questo duplice omicidio, quando arriva in ospedale, appunto, molti agenti gli voltano la schiena, gli voltano le spalle. E se veniamo invece più vicino a noi, in Francia è successo un episodio del secondo nel giro di due giorni che inquieta molto Oltralpe. Inneggia da là e lancia l'auto sulla folla. 11 feriti a Digione. È il secondo attacco in due giorni di un lupo solitario. Anais Ginori ne parla a pagina 17 di Repubblica. Un'auto a tutta velocità contro una folla di passanti, il conducente che grida Allahu Akbar, cioè Dio è grande, e accade ieri a Digione. Poi fermato, ha urlato alle autorità: ho fatto questo in nome dei bambini della Palestina. Il fatto accade tra l'altro all'indomani di un altro attacco simile. Venerdì un uomo era entrato in un commissario a Jouy-les-Tours, nel centro del paese, ferendo 3 agenti prima di essere ucciso dai poliziotti. E sull'aggressore, che è un 20enne francese originario del Burundi, convertitosi da qualche anno all'Islam, è stata aperta un'inchiesta per terrorismo. Questo inquieta ovviamente la Francia. È il concetto dei cosiddetti lupi solitari che fa molto paura. C'è da dire che invece c'è una mamma disperata, una mamma cubana che vive in Veneto, che oggi finisce sui giornali perché dice: ecco qui, c'è una foto che proviene dalla Siria che riprende questo bambino Ismail di 3 anni, è mio figlio che il mio compagno ha portato, Ismar Mesinovic, ha portato in Siria dove è andata a combattere la Jihad, l'ha portato via lasciando l'Ungarone, ha portato suo figlio, è morto il mio compagno, io ora rivoglio mio figlio. Ci sono queste foto incredibili, quella foto del bimbo ostaggio della Jihad, la madre viene intervistata da Giusy Fasano sul Corriere della Sera: eccolo lì, è mio figlio, mi consumo gli occhi, guardo il suo viso, il mio compagno aveva detto che l'avrebbe portato dai parenti, noi ci siamo separati, era giusto che lo portasse dai suoi parenti in Bosnia come io l'ho portato a Cuba, e invece ho scoperto l'ha portato in Siria perché è andato lì a fare la Jihad, a combattere. Poi Il mio compagno è morto e ora questo bambino rimane ostaggio lì. Vabbè, questa storia sui giornali. È tornata la pazza Inter, questo è il titolo del Corriere, sì, del Corriere, della Gazzetta dello Sport. Ma siamo all'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. No, è partita il dibattito sulla moda di deprimersi a Natale. E allora oggi Cristiano Gatti sul giornale fa un articolo contro la moda deprimente di deprimersi a Natale. Non ci ho capito niente. I sondaggi sull'ansia, dai. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui cari ascoltatori, forse stasera o forse domani, insomma comunque siamo nei giorni prima di Natale, verrà approvata in via definitiva la Camera la legge di stabilità, è una legge che, stando alle parole del ministro dell'economia Padoan, promette meno tasse e più possibilità di creare posti di lavoro. Oggi sui giornali ci sono anche versioni un po' diverse, il giornale titola addirittura 50 miliardi di nuove tasse in più. Il Corriere della Sera invece si concentra molto anche su che cosa? Su un po' il tradimento alle partite IVA. Comunque non è proprio questo il nostro punto di partenza. Di queste cose magari un paio di domande le farò al sottosegretario all'economia Enrico Zanetti di Scelta Civica, che è qui con noi, che saluto. Buongiorno sottosegretario, eccoci. Però vorrei invece il nostro punto di partenza metterlo in una storia di una donna di 37 anni che, sono parole sue, credo, in uno sfogo pubblico ha detto: stanca di fare la rivoluzione silenziosa e spossata da una battaglia continua, quotidiana, contro lo Stato, contro le tasse, ha deciso che cosa? Di tenere in piedi l'attività che fa la tatuatrice, ma di non pagare più le tasse. Si chiama Chiara Rizzi e la saluto, buongiorno e benvenuta. Eccoci. Buongiorno. Qui. Quando ha deciso lei di non pagare più le tasse? Vuole la via ufficiale o la via ufficiosa? No, dica la via. Quella... Ho deciso di non pagare più le tasse quando vedevo che non riuscivo più a comprare da mangiare per la mia bambina. Ecco, e questo è successo quando? Dopo, cioè, mi faccia capire, cioè, che cosa è successo, nel senso l'attività non andava male oppure... non è che l'attività andava male, l'attività andava bene. L'attività va bene, in questo momento va bene per riuscire a vivere serenamente in un ambito familiare, mio è un ambito familiare un pochino eclettico, perché io sono una ragazza madre, una donna madre con una bambina e un cane, e quindi la mia attività in questo momento riesce a sopperire a quello che sono le spese vive, quindi pagare ovviamente l'affitto, certo, le bollette, appunto, ma la fornitura per il mio materiale, il mangiare per la bambina, il cane e me. Ma non le tasse, cioè questo non, è per... non le tasse, non le tasse al di fuori di quello che ci sono comunque nelle spese vive. Cioè la bolletta elettrica, quello che serve per mantenere, come dire. Infatti, se io devo pagarmi le tasse, chiamiamo le tasse come questa splendida nuvola di fantozzi che ci gira intorno, devo scegliere tra pagare le tasse e pagare la bolletta della luce piuttosto che l'affitto, piuttosto che andarmi a prendere il litro di latte vegetale per mia figlia, mi dispiace, ma io scelgo di pagare la bolletta della luce, l'affitto o di dare da mangiare a mia figlia. Quando lei ha fatto questo sfogo, so che molti le hanno scritte, molti sono a fianco alla sua battaglia, altri so che l'hanno anche criticata dicendo ma insomma non pagare le tasse è un reato fino a prova contraria. Se la vediamo così, io ribadisco il concetto che non mi sento più delinquente da tanto tempo. Perché non è un reato decidere di mantenere la propria famiglia e non di mantenere un sistema che è diventato malato da molto tempo. Quando ha capito che diciamo era troppo, nel senso che all'inizio le tasse immagino le avrà pagate, poi che cosa è successo? Sono aumentate esponenzialmente, ha visto che venivano i conti sempre più non so, lì. Ma è semplicissimo, quando arrivi al punto che capisci che non sei più in rosso nel conto in banca perché sei andato fuori a mangiare la pizza. Parliamo di questi, parliamo di pinzillacere, non stiamo a parlare di cose perché ti sei preso il Mercedes, no, ti rendi conto di essere in rosso perché la banca ti ha preso i soldi per pagare un'imposta, che può essere qualsiasi tipo di imposta, l'IVA, l'IRPEF, l'ICI, la vecchia ICI, scusatemi, adesso si chiama in un'altra maniera, ma io sono ignorante perché 5 anni fa ho tolto la televisione e ho smesso veramente di informarmi sulla miriade di cavilli, tasse, imposte che stanno venendo fuori ogni giorno, ogni sacro giorno. E quindi ha deciso questo, però quelli che l'hanno criticata che cosa le hanno detto? Perché qualcuno so che c'è stato. Ma fondamentalmente sono critiche basate secondo me sul sistema di educazione. Siamo stati educati ad abbassare la testa, a dire che è giusto pagare le tasse, perché noi siamo nati per pagare le tasse, noi siamo veniamo su per pagare le tasse perché è giusto, perché con le tasse si paga e poi si, lì si fermano. Però no, in teoria con le tasse si pagano che cose? I servizi, gli ospedali, gli ospedali, i servizi, okay, i treni. Un sacco di servizi dove ogni giorno ci sono mancanze, dove ogni giorno la gente che ci va veramente all'ospedale, in treno, con gli autobus, dove la gente porta i bambini a scuola, dice oh, è bello, io pago una cosa come un X euro di tasse e mi ritrovo ad avere una scuola che fa acqua, una sanità che lasciamo perdere, i treni che scioperano un giorno sì e l'altro pure, i mezzi pubblici, cioè se io devo pagare, se io devo strapagare per avere meno di zero, vuol dire che qualcosa non va. Qualcosa non va. Perché io, sinceramente parlando, pago per avere il treno che mi arriva alle 8:10, non alle 9:40, e poi vedo un signorino di turno con l'auto blu, la bicicletta blu, quattro persone a fianco, quello che gli porta la borsa, il fazzoletto di carta, la colazione. Insomma, ce l'ha un po' con la classe dirigente, la classe, con la classe politica un po' ce l'ha. Vabbè, ma Chiara Rizzi, però lei tra l'altro ha messo pubblicamente, insomma, il suo nome e cognome, quindi dando sfogo a questa battaglia che per anni ha detto silenziosa, ora diventa una battaglia in qualche modo mettendoci la faccia. Vogliamo L'alternativa sentire... era che io mi impiccassi come tutti gli altri, ma siccome penso a mia figlia e penso di essere una mamma che invece di impiccarsi come hanno fatto tanti e come stanno facendo tanti ogni giorno, perché nessuno lo dice, ma tanta gente si sta togliendo la vita. Ma guardi, parla poi con una radio, Radio 24, che ha fatto su questo una campagna proprio cercando di sensibilizzare su questo dramma di tante persone che si sono tolte la vita, soprattutto imprenditori e soprattutto appunto nel nord-est da dove lei ci parla, proprio per queste difficoltà. Però mi faccia sentire, perché la sua storia è molto chiara, vorrei sentire il sottosegretario Zanetti. Eccoci qua, sottosegretario. Allora, Chiara Rizzi dice di non sentirsi una delinquente, di non sentirsi colpevole, sottosegretario. Io comprendo chiaramente l'esasperazione che sta dietro una scelta di questo tipo, però nell'istante in cui ci sono delle regole, le regole si lottano, si deve lottare per cambiarle, ma finché ci sono vanno rispettate, altrimenti si è delle persone che non rispettano le regole che una comunità si è data, è una comunità nazionale, non c'è un modo diverso di dirlo. Ripeto, capisco perfettamente l'esasperazione che ci sta dietro, ma non si può negare che nel istante in cui non si pagano le tasse si sta facendo un comportamento che è contrario alle regole che il nostro paese si è dato. Per il sottosegretario, lei capisce che la protesta, che in questo caso ha un volto, una protesta di molte persone che proprio non le pagano le tasse per impossibilità, in questo caso lo Stato che cosa consente dal punto di vista, è chiaro che le tasse vanno pagate, si dice sempre così, ma che cosa consente se uno proprio non ce la fa? Ci sono delle modalità per ovviare a questo? No, ci sono possibilità nell'istante in cui non si riesce a ottemperare il proprio dovere fiscale e chiaramente si viene assoggettati ad accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, ci sono possibilità di rateizzazioni, però è chiaro che alla fine se una persona realmente non ha la possibilità fisica di pagare le imposte perché non ha liquidità, non ha beni, cioè è evidente che anche rispetto alle rateizzazioni si troverà in mora, però questo determina inevitabilmente l'azione di recupero da parte dell'amministrazione finanziaria. Quello che dobbiamo fare è chiaramente cercare sempre più di andare verso un sistema fiscale che aiuti il lavoro, aiuti la produzione, che cerchi di abbassare la pressione proprio anche sulle piccole attività. Questo è indubbiamente un impegno che la politica deve cercare di prendere, però quello che è nel mentre, quelle che sono nel mentre le regole e le tasse che devono essere pagate non si vanno rispettate. Non c'è altro che si possa dire, onestamente. No, ma anche sulla questione dei servizi, effettivamente io capisco, Chiara Rizzi, lo sfogo di dire i servizi non vanno bene, gli ospedali, le scuole, ma per qualcuno non vanno bene perché c'è proprio un'altissima evasione fiscale in Italia e se tutti le pagassero le tasse questi servizi funzionerebbero meglio. So che Oscar Giannino adesso mi prenderebbe a testata di fronte a questa frase dicendo che se tanto tutti pagano sempre più tasse e lo Stato non darà più servizi ma semplicemente aumenterà la spesa pubblica e tutte queste tasse finiranno nel calderone dello Stato, più gliene diamo e più se ne tengono. Sottosegretario Zanetti, lei è di quale linea, diciamo, macroeconomica di pensiero? Ma direi che sono più sulla linea gianniniana, se dovessi dire una cosa del genere, nel senso che l'evasione è assolutamente va combattuta e può consentire un riequilibrio sociale, però non aggiungendo nuova disponibilità allo Stato, perché le entrate di cui lo Stato dispone oggi sono abbastanza per i servizi, quindi arrivare... si tratta di lavorare anche sulla spesa, certo. Fermo restando che però l'evasione è fondamentale, perché dato 100 rimane ma viene distribuito in modo più equo. Questo sì, però quindi quelli che dicono ci stanno scrivendo in tanti, sono io che pago per esempio l'ospedale di Chiara Rizzi con le mie tasse, insomma è un discorso anche questo forse non così è un discorso discorso delicato, perché tra l'altro non a caso, guardi, una delle regioni dove c'è sempre massimo malumore fiscale e tensioni è il Veneto, tra l'altro la mia regione. Ma perché? Perché il Veneto, se si guardate anche le statistiche dell'amministrazione finanziaria, dell'agenzia delle entrate, è la regione dove c'è il massimo tasso di adempimento spontaneo. Ed è normale che questo accada, perché quelli che legittimamente di più protestano sono coloro i quali però protestano perché? Perché le tasse effettivamente le pagano. È rimanendo nel sistema e seguendo le regole che ti dai anche la massima determinazione, oltre che legittimazione morale, per pretendere un cambiamento di regole. Se no ognuno fa il fai da te e poi le cose restano sempre uguali. Restano così. Chiara Rizzi, senta, guardi che ci sono molti anche che stanno chiamando, tra poco sentiremo anche gli ascoltatori dopo la pubblicità, e molti messaggi, c'è alcuni di solidarietà, alcuni anche molto critici. Cosa risponde a chi dice sono io che pago le tasse anche per lei, anche per sua figlia, visto che lei le tasse non le paga? Allora, guardi, io intanto le dico, le tasse me le pagano? Allora come mai io spendo 190 euro di analisi del sangue? Perché io non pago il ticket, ok? Perché costa di più il ticket e quindi mi pago le tasse, mi pago la sanità in maniera privata. Perché io devo pagarmi l'ecografia 120 euro per averla subito, perché sennò l'avrei fra sei mesi? Perché io. Ma questo anche altri, anche gli altri, non solo lei. Il fatto di che io non paghi più le tasse non è che l'altro paga per me. È quello il bello. Beh, in teoria, se le tasse servono per i servizi, in teoria chi non le paga, chi non le paga. Per i servizi, ma ne siamo veramente ancora convinti? Questa è un dibattito. Farsa, siamo ancora convinti. Senta, ma l'agenzia delle entrate non le bussa alla porta? Certo che bussa, ma tanto cosa trova? Mi hanno tolto tutto. Ho dovuto vendere tutto. Ho dovuto fare debiti per pagare queste cazzo di tasse. Scusi il francesismo. Sì. Ok? La rateizzazione, il signor Zanetti, perché non si rateizza quella piccola pensione che andrà a prendere dopo quel piccolo mandato politico? Quindi lei ce l'ha con la classe politica. No, io ce l'ho con chi dice le bugie, perché non sono solo loro, sono tutti quelli che dicono le bugie, però mi dispiace, non ce ne sono più di soldi e non sono da sola. Io capisco le critiche di chi ancora paga le tasse, ma ci sono persone che veramente si stanno ammazzando perché hanno fatto il mutuo per pagare le tasse. Ma stiamo scherzando? Ma voi ancora ci credete a queste bugie? No, guardi, infatti noi siamo qui a parlarne. Sottosegretario, mi faccia fare due domande sulla questione della legge di stabilità, perché oggi i giornali, lo sfogo si può anche capire, io tra l'altro devo dire, si può anche capire. Oggi sui giornali si racconta di tasse più o tasse meno. Allora, qual è la verità? Questa legge di stabilità le aumenta, e come dicono alcuni giornali, o lei taglia queste tasse, come dice il suo ministro dell'economia? No, le tasse con questa legge di stabilità a livello complessivo le diminuisce. Vede, ci sono una serie di interventi concentrati su lavoro e produzione, quindi cuneo fiscale lato lavoratori ed è l'intervento sull'IRPEF, il cuneo fiscale lato imprese ed è la deducibilità del costo del lavoro dall'IRAP. Poi ci sono interventi importanti anche finalizzati alla stabilizzazione dei contratti con una decontribuzione radicale. L'insieme di queste misure vale circa 18 miliardi, dopodiché la diminuzione di pressione fiscale non è di 18 miliardi, perché ci sono altri interventi di minore valore comunque che aumentano in altri ambiti un po' la pressione, ci sono tagli alle regioni e agli enti locali che sicuramente in via indiretta determineranno in parte, ovviamente non per intero perché ci sono fior di inefficienze da mettere a posto, ma in parte un aumento magari delle tariffe, ma il saldo complessivo è positivo, tanto è vero che vede la pressione fiscale era 43,3. Se noi consideriamo, come è giusto fare ovviamente, i 10 miliardi dei famosi bonus 80 euro come una minore IRPEF, perché quello sono 10 miliardi di IRPEF che restano nella busta paga, ecco che la pressione fiscale scende a 42,8 e francamente se andiamo indietro al 2010, al 2009 era 42,7 per parlare degli anni prima. Però... Siamo tornati indietro, in modo mi ha molto colpito, però, sottosegretario, ce lo spieghi se è vero il funzionamento del cosiddetto meccanismo delle clausole di salvaguardia, nel senso che oggi il Corriere della Sera racconta che se non scatteranno la spending review, se non scatterà le manovre contro l'evasione IVA, c'è il rischio di, già messo nero su bianco, di aumento delle accise di 1,7 miliardi nel 2015 e col rischio che l'IVA salga al 25,5%. Ci sono queste cose in legge di stabilità? Sì, certo, queste clausole di salvaguardia ci sono. Per quanto riguarda l'IVA, il 25,5%, stiamo parlando addirittura del 2018, sì. E comunque, le clausole di salvaguardia ci sono. Ma come facciamo a assicurare ai cittadini che non accadrà? Perché sa, la fiducia è un po' all'umice. Posso ad esempio dire che anche quest'anno avrebbero dovuto scattare 3 miliardi di clausole di salvaguardia che erano state lasciate dal governo Letta, e questo governo non le ha fatte scattare. È evidente che l'anno 2015 sarà un anno nel quale dovremo fare quelle cose senza le quali le clausole di salvaguardia scatterebbero. Però vorrei anche ricordare che queste clausole di salvaguardia sono posizionate dal 2016 in avanti, quindi con un 2015 di possibilità di lavorare, appunto per lasciarle per quello che sono, cioè una salvaguardia e non una norma necessaria. Mentre ad esempio mi ricordo nel 2011, a settembre 2011, il governo di allora mise una clausola di salvaguardia di 20 miliardi che scattava subito al 2012, e quella infatti scattò, la clausola di salvaguardia del governo Berlusconi scattò, l'applicò poi, per carità, Monti, perché fuggirono prima di doverla applicare, però quella era una clausola di salvaguardia assassina, perché se tu a settembre metti una clausola di salvaguardia a 20 miliardi, parliamo di qualcosa con un orizzonte a oltre 12 mesi. Quindi c'è il tempo per fare le cose. Bisogna farlo, ed è uno dei motivi per cui il governo deve rimanere, deve lavorare con serietà, non si devono parlare sciocchezze come elezioni anticipate, perché allora sarebbe veramente una forma di fuga dalle proprie responsabilità. L'ultima questione, verrà approvata oggi la legge di stabilità? Secondo tempi parlamentari, oggi, domani, che succede? Domani. Sono tutti i presupposti perché accada domani. Intanto, sottosegretario, la ringrazio, sottosegretario Zanetti. 24 mattina. Allora, eccoci qua, le 8:40 minuti. La storia che ci sta raccontando Chiara Rizzi da Padova sta molto dividendo, devo dire, Chiara Rizzi. Molti su Twitter mi scrivono: ma come fai a parlare, come fai a dare voce a una persona che non paga le tasse, eccetera. Sono quelli che o vorrebbero la censura o quelli che vorrebbero che, siccome io do voce a una persona, pensano che io sia d'accordo con una persona. Noi facciamo parlare tutti 24 mattino, uno spazio libero nel quale raccontiamo storie di italiani, chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Non è che prendiamo posizioni per forza, facciamo raccontare le storie, poi la gente, siccome è mediamente intelligente, quella che ci ascolta, la gente ha un suo pensiero e formula una propria idea. Chiara Rizzi, per esempio, le faccio ascoltare Lucia, ci chiama da Padova, dalla sua Padova. Buongiorno Lucia, lei che ne pensa? Buongiorno signor Milan. Sì. Buongiorno, ma io capisco la signora, le difficoltà che ha, eccetera, però la signora, secondo me, dovrebbe pensare che tanti hanno queste difficoltà, e se tutti facciamo come dice lei, non so l'Italia dove andrebbe, no? Quindi lei è in disaccordo, dice. Ma io sono veramente in disaccordo con questa signora, capisce? È in disaccordo. Capito, Chiara? Se facessero tutti come lei, dove andrebbe l'Italia? Se facessero tutti come me, salterebbe il sistema e veramente ci sarebbero le vere riforme. Le vere. Non i bugiardini. Aspetti, Chiara, Lucia dica. Ascolti, perché non cerca di dare un po' di sostegno a questo governo che cerca di fare Lucia, usciamo dalla questione politica, non è tanto la questione politica al governo. Non è una questione politica, ho smesso di dare sostegno a chi mangia e basta, bisogna anche lavorare, signora. Siccome non lavorano, bisogna mandarli a casa tutti. Vabbè, però questa anche chiara è una questione politica. Ho lavorato fino a 5 anni fa, sai cosa portavo a casa? 1000 euro al mese, lavoravo nell'ospedale, facevo i turni. Pagavo le tasse, sa, anch'io, e tutte le pagavo fino all'ultimo centesimo. Insomma, lei, Lucia, ma è chiaro, Lucia, lei dice non è il messaggio giusto, facessero tutti come lei, salterebbe, diciamo, l'Italia, perché Chiara Rizzi dice salterebbe il sistema, e finalmente di fronte a un sistema che salta si tirerebbero su le maniche della camicia e farebbero le riforme. Vorrei stare a Padova, ci chiama Liliana da Padova. Buongiorno Liliana. Pronto, Liliana, ci sente? Io la sento, lei mi sente? Sì, bene, dica. Buongiorno. Sentivo la trasmissione venendo al lavoro, sì. E avrei piacere di raccontare un piccolo episodio della mia esperienza lavorativa. Io ho preso l'azienda ormai già da 12 anni, l'azienda che era di mio padre, che compie quest'anno, non mio padre ma l'azienda, ben 54 anni. Sì. E siamo rimasti in piedi rinnovando tutto con grande fatica. E quest'anno è il primo anno in cui io ritardo nel pagare le tasse, la scadenza non l'ho pagata. Ritarda però, intanto non le ho pagate, poi vediamo cosa succede, perché qui navighiamo a vista, quindi non lo so cosa succederà in gennaio, non lo so, ho la possibilità di pagarle in ritardo con una piccola penale, se potrò lo farò, ma ho dato preferenza alle tredicesime dei miei 3, attualmente 4 dipendenti, uno in malattia, e ho preferito fare questo dopo aver passato un anno molto difficile e subendo ben 2 fallimenti dei miei clienti abbastanza importanti. Quindi lei ha dovuto scegliere o pagare le tredicesime dei dipendenti oppure pagare. Ho fatto una scelta, pagare prima di tutti i dipendenti, poi i miei fornitori, quelli che mi fanno lavorare, perché io ho bisogno. Lavoro conto terzi, ho bisogno di alcune forniture indispensabili per il mio lavoro, e a questo punto ho deciso che quest'anno, intanto per ora, farò questo. Poi è una lotta impari comunque. Certo, su questo non c'è dubbio. Liliana, la ringrazio, vorrei andare a Pistoia da Maurizia, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io volevo solo dire, sono solidale con la signora che non paga le tasse, anche se io fino ad ora le ho sempre pagate. Però lei che fa? Io ho un negozio di alimentari, macelleria. Sì. E dunque mi è toccato reipotecare il negozio, perché se voglio pagare le tasse bisogna fare così, bisogna andare alle banche. È dura andare avanti, e capisco la signora che non ce la fa. Cioè, noi bisogna controllarsi a mangiare una pizza, bisogna controllarsi, nonostante si lavori 12-13 ore al giorno. Però lei dice, Maurizio, è solidale, però lei le ha sempre pagate. Le ho sempre pagate, con sacrificio le ho sempre pagate. Magari non mi sono fatta lo stipendio io fondo al mese, questo capita spesso. E quindi e la rabbia mia è che quando poi si accende la televisione, come non so, si sa tutti, si sente lì che chi ruba di qua, chi ruba di là, chi ruba di sotto e chi ruba di sotto, e la rabbia è tanta. La rabbia c'è. Dover pagare le tasse e sapere che il 95% dei nostri, chi ci manda avanti, andare avanti si manda noi l'Italia, chi ci comanda. Perché noi ora siamo diventati solo dei servi che devono pagare. Maurizia, io intanto la ringrazio. Chiara Rizzi però ha sentito, cioè il messaggio che ci dice Maurizia è diverso, cioè è commerciante, fa fatica, come anche l'imprenditrice che ci ha detto per la prima volta ho dovuto fare una scelta, pago le tredicesime e non le tasse. Però è diverso dal suo, cioè il suo è proprio una protesta che va avanti da un po'. Mentre la commerciante, per esempio, di Pistoia ci dice, io con fatica non ho preso lo stipendio, ma le tasse rispondere? Sì, certo, le tasse le ho pagate fino. Allora, io guardi, le parlo col cuore in mano. Io vorrei che questa situazione oggi, se fossi Dio, nessuno avrebbe più problema, tutti pagherebbero le tasse, si risolverebbero tutte le questioni. Non è da oggi, io ho 37 anni, ho cominciato a patire ancora anni fa, perché comunque ho sempre lavorato, ho cominciato ad avere problemi anni fa. Oggi questa signora di Pistoia ha i problemi, domani li avrà come me. Quell'altra ditta, quell'altra imprenditrice, sì, oggi non paga le tasse per dare da mangiare i dipendenti. Il dipendente che gli si vede su 3.000 euro togliersi 1.800 euro di imposte e non può dare da mangiare i figli. Oggi però fa fatica, va bene, dobbiamo essere nella legalità, le passiamo. Sì, domani. Sì. Domani lei dice prima o poi saranno 100.000 persone ad essere come me. Saranno come lei. Domani saranno ancora di più. La dobbiamo smettere di credere alle bugie. Ci hanno. Non ci hanno ridotto a servi. Noi siamo come le mucche da macello. Lei dice, allora adesso ci macellano. Facciamo sentire Alberto allora da Roma, che leggo, mi dico, dalla redazione è contrario invece. Alberto, buongiorno. Buongiorno, volevo soltanto sottolineare un aspetto, a me sembra un pochino pericoloso questo ritorno di questa trasmissione, nel senso che mi sembrerebbe un po' un'offesa a chi le tasse le paga e sistematicamente tutti i mesi da 40 anni come io ma come tanti altri. Ma no, comunque Alberto non è, no, mi creda, non è così, cioè non è che io sto incitando a non pagare le tasse facciamo il giornalismo e quindi nel giornalismo raccontiamo anche delle storie, raccontiamo sì, questa storia. Comportamenti illeciti secondo ma è lei sta dicendo non bisognerebbe dare tanto spazi a comportamenti illeciti, ma guardi che qui non è altri a limitazione. Allora, ma secondo lei, scusi, con questo principio, secondo lei, se fosse ancora in vita, io dovrei intervistare o no Osama Bin Laden? Io faccio sempre questa domanda di giornalismo. Io dovrei, secondo lei, intervistare Osama Bin Laden se fosse vivo? Sono due terreni completi, è chiaro, è un criminale, il capo dei criminali, quello che ha fatto. Sono questioni che non si possono mettere. Cioè, nel senso, ma non è questione dello stesso piano, stiamo registrando un problema che c'è in Italia, persone che dichiarano di non pagare le tasse. Il problema c'è per tutti, il livello della tassazione in Italia è elevatissimo, lo è per i lavori dipendenti, lo è per gli autonomi, lo è per i commercianti, bisogna fare in modo di ridurre le spese affinché tutti possiamo pagare di meno e pagare tutti. E comunque io sono contento che lei sia qui a dire la sua. Bravo, significa fare una concorrenza sleale a chi le tasse le paga. No, nessuno ha detto che Chiara Rizzi è più brava di un altro, stiamo facendo una trasmissione per raccontare che esistono anche alcune persone come Chiara Rizzi. Senza dire che sbaglia, senza dire che è un racconto di una storia. E lei è qui a dire che secondo lei è sbagliato. Insomma. Esistono pensionati a 1000 euro al mese che le tasse le pagano. Assolutamente. E si arrampicano per arrivare a fine mese e non hanno spazio in trasmissione per far sentire la loro protesta. Lo spazio a tutti. Sono parte di uno Stato che ha dei problemi. Noi diamo lo spazio, il maggior spazio possibile a tutte le persone che chiamano. Anche lei è qui e sono contento che abbia chiamato per esprimere il suo dissenso. Dopodiché a tutti non ce la facciamo, dovrei fare una trasmissione di 8000 ore. Allora, siamo qua alle 8:51 minuti. Vabbè, Chiara Rizzi, mi attiro più critiche io di lei e va benissimo così. Va benissimo così. Va benissimo così. Io non ho paura a far parlare le persone, qualunque cosa dicano e qualunque cosa pensino. Vorrei sentire Andrea da Modena, ci chiama. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, io chiamavo perché ho una testimonianza un po' diversa. Io sono una persona che è convinta che le tasse vadano pagate. Anch'io le pago fino all'ultimo, giusto per... Io le pago non proprio fino all'ultimo, nel senso che io sono un obiettore fiscale, nel senso che io sono convinto appunto che esistano comunque degli usi assolutamente assurdi e profondamente ingiusti delle nostre tasse e per questi è giusto ribellare. Per esempio? In tanti casi... La discussione democratica, il dibattito certo, ma quando lo Stato usa i soldi per uccidere delle persone, allora io non sono d'accordo. Ma mi faccia capire cosa vuol dire lei che tasse. Io faccio obiezione alle spese abortive e alle spese militari, ormai da vari anni. Ho anche subito il fermo amministrativo dell'auto alcuni anni fa per diversi mesi per questo, però a un certo punto se nessuno di noi darebbe dei soldi se ci dicesse. Scusi, le spese mi faccia capire, le spese abortive cosa vuol dire? E le spese militari? Vuol dire che i soldi per effettuare gli aborti. Ma lei come fa a sapere delle sue tasse che gli arrivano a casa quanti soldi servono a effettuare l'aborto, che è tra l'altro una legge conquistata con democrazia secondo me, ma questo è un altro parere, Andrea. Si sa perché esistono dei dati, ci esistono i DRG, per cui si sa che per ogni aborto effettuato in una struttura pubblica la regione dà 1100 euro a questa struttura, quindi sono moltiplica del numero di aborti, sa qual è la spesa complessiva minima, perché poi oltre agli interventi ci sono anche le analisi. E lei cosa fa? La sua quota parte, la calcola e la detrae? Esatto, proprio perché io dico le tasse normalmente vanno pagate, però se un'istituzione vuole anche avere il consenso dei cittadini, bisogna anche che guardi all'uso di queste tasse, perché tutte queste cose qui, su cui tante persone non sono d'accordo, però siamo costretti anche a finanziarle e tutto a solo carico. Vabbè, insomma, Andrea, quindi lei dice le tasse vanno pagate, ma fa l'obiezione fiscale per alcuni tipi di tasse, quelle che permettono l'aborto e quelle per la guerra, mi sembra di capire, cioè le spese militari, mi sembra di capire, d'aver capito. Andrea, no, perché devo passare oltre. Chiara Rizzi, per il momento la dobbiamo salutare, staremo a vedere. La saluto, io la ringrazio tantissimo per avermi dato voce. Ma sì, qua noi diamo voce. No, guarda, guardi che non è che sono molto d'accordo con lei, lo dico. Aver dato voce, si renda conto, sì, veramente, a milioni, milioni di persone che vivono la stessa mia situazione e che purtroppo per paura... non hanno il coraggio di dirlo, non hanno il coraggio di alzare la voce. Ma infatti, guardi, io purtroppo non ho più niente da perdere. E quindi ha fatto questo gesto. Io infatti la ringrazio con questo, per dire, ma non è che adesso le sto dando contro, non è che sono molto d'accordo su quello che lei fa, ma è il bello è questo, cioè che sono qui e gli ho dato voce, gli ho dato spazio perché mi interessava capire la sua storia, e non è neanche escluso che torneremo a richiamarla. Intanto in bocca al lupo, ovviamente, ma ciao Italia! Ma ciao Italia, sì, siamo pronti ogni giorno, come sapete noi andiamo a scovare un nostro ascoltatore all'estero, ascoltatore o ascoltatrice. Oggi vi vogliamo far provare un po' di invidia. Andiamo a Bangkok, credo. Saluto Mario! Ciao Alessandro, ciao Italia! C'è un po' di ritorno, Bangkok, Thailandia, città straordinaria, ma anche un po' così di grandi contrasti. Che ci fai a Bangkok, Mario? Io lavoro come client manager per una multinazionale americana nel settore assicurativo, non nel settore finanziario, ma per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. E quanti gradi ci sono a Bangkok adesso? Guarda, oggi è una splendida giornata ed è una stagione bellissima perché sono 30 gradi, però la sera è fresco, siamo sui 26, anche 24. 24. Di dove sei in Italia e quando hai lasciato l'Italia? Guarda, io sono nato a Napoli, ho vissuto a Latina e sono andato via dopo aver completato gli studi universitari, il master, ho avuto qualche esperienza, sono 4 anni comunque, 4 anni e mezzo che sono qui. Ah, bellissimo. Ma come ti trovi? Torneresti in Italia? Ti piace stare lì? Guarda, dico, la città è stupenda, magnifica, stupenda anche per quanto riguarda l'esperienza lavorativa, la possibilità di interagire con persone da tutte le parti del mondo. E poi la Thailandia è magnifica, ha la possibilità di andare al mare tutto l'anno, anche i posti di montagna, si sta bene, sta veramente bene. Tornare in Italia non lo so, non penso, sarebbe un passo indietro, non lo farei. Ecco, ma come mai un passo indietro? Accidenti, ma qualcuno che ci lanci una speranza, perché che ne pensi dell'Italia raccontata attraverso i nostri microfoni da lì? Guarda, io ti ascolto sempre, ascolto te, ascolto anche le varie trasmissioni che ci sono, adoro Giannino, anche Barisoni, quindi ti ascolto, sento le problematiche che ci sono, ho speranza, magari potesse andare bene in futuro, potrei anche pensare di tornare, ma non la vedo bene, sentivo anche l'ascoltatrice di prima, quello che diceva. Stanno messi bene in questo momento in Italia. Dice, se facciamo questo tipo di trasmissioni, dici non siamo messi bene. Mario, che ti devo dire? Ovviamente no. Passa un buon Natale. Che dicono dell'Italia? La cosa più bella che dicono dell'Italia lì in Thailandia? Guarda, se parlano bene, sono ovviamente, vabbè, qui la cosa che sono di più è il lusso. C'è una zona di montagna che la chiamano la Toscana Valley, a 2 ore e mezza da Bangkok. Fantastico. E c'è anche un piccolo paesino che si chiama Palio, e in realtà riprende un po' le stradine delle città, diciamo, della Toscana, molto bello, guarda, dei posti magnifici, la valle toscana a 2 ore da Bangkok. Mario, che bello, ci ascoltate anche da lì, ti devo salutare. Se ci ascoltate dall'estero, ricordate, scrivete una mail 24mattino@radio24.it e noi vi chiameremo in onda. Grazie Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Lorenzo Nespoli insieme a Carmelo Lauricella. Sarai qui anche domani, Carmelo? No, beato te, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.